Dato che la pandemia sta rallentando il ritmo, la politica torna a discutere. Lo fa nella maggioranza. Il tema è la riforma del fondo salva stati che il Premier andrà a discutere al Consiglio europeo. Mercoledì si va al voto e la tensione nei 5 Stelle è forte. Poco altro da una giornata che fa segnare, come si diceva, segnali positivi sul fronte ospedaliero e dei contagi da Covid-19, con qualche problema con l'Abruzzo che si è autoassegnato la zona arancione con un paio di giorni di anticipo. E con gli occhi ancora pieni di quelle immagini assurde della terrazza del Pincio a Roma, di quella convocazione via TikTok per una maxi rissa che si è concretizzata sabato notte. Tutti vicini, del resto era una rissa, tutti senza mascherina o con la mascherina abbassata. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:34 minuti di lunedì 7 dicembre. Oh, date un segno della vostra presenza, perché c'è un mega ponte. Chi c'è? Chi c'è? Alle 6:34 del 7 dicembre. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, come sempre. Con Peter Bescapei in regia, che si gode questo primo posto in classifica e già vede lo scudetto. E adesso gesti apotropaici. Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Dunque, da cosa iniziare? Forse proprio da quello che è successo al Pincio. Insomma, date qualcos'altro, date qualche altro strumento di aggregazione a questi ragazzi, se no finisce così. Si scherza, però quello che è successo l'altro giorno a Roma è allucinante. Guarda, ma sei impazziti fragili! Finalista, ma tu vuoi qualcosa da rete? Guarda, quanti pazzi sono! Guarda, ma che davvero! Ma chi stava a giocare? Gara, ma che davvero, raga, questo è da welcome! Così è, così. Sentiamo una testimonianza da quello che è successo sabato sera, va. Tutti capocciati, c'era un botto di gente affollata, io manco riuscivo a respirare. Sono minati, è venuta la 4 pattuglie della polizia, dei carabinieri, allora sono iniziati a scappare. Questa era da Fanpage, e così viene ricostruita la genesi di questa rissa. Due ragazzi alle 5 di pomeriggio si danno a vedere per litigare, perché hanno litigato e si danno a menare praticamente. Era da diversi giorni che prima di sabato, quindi lunedì, martedì, mercoledì, tutta la settimana scrivevano sui social se dovevano vedere, poi le amiche sabato si insultavano in diretta e tutte queste cose, e sabato si dovevano vedere. E vabbè. E va bene, Caragnese Pini, direttrice della Nazione, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene. Cioè, lo sai che c'è più gente sveglia di quanto non mi aspettassi, eh? Addirittura un ascoltatore manda una foto da Andermatt imbiancata, ascoltatori dalla Baviera che scrivono, siamo qua all'ascolto. Un altro dice, fantastico, è dalle 5 di mattina che ti aspettavo addirittura, amico mio, un'ora e mezza. Allora, cara Agnese, bisogna trovare qualcosa di meglio per far sfogare questi ragazzi, questi adolescenti. Non so se sia un portato del lockdown quello che è successo al Pincio l'altro giorno, che dici? Beh, è anche possibile, nel senso che comunque poi al di là di quello che è successo, la gravità di quello che è successo, anche delle modalità che mi incuriosiscono, no? Cioè TikTok come strumento per organizzare una rissa, cioè comunque dobbiamo tenere di conto che tutti noi stiamo attraversando un momento assolutamente fuori dalla storia e dal tempo, e le generazioni più giovani ne fanno delle spese considerevoli, anche in termini di tenuta, di possibilità, di cose da poter fare. A volte si banalizza un po' questo aspetto, dando anche alle generazioni più giovani delle colpe che non meritano. In realtà sono fortemente penalizzati. E se vogliamo parlare delle cose più positive, più buone, sono penalizzati anche sul profilo dell'istruzione, della scuola, cioè è qualcosa che comunque pesa moltissimo, sì, anche per le superiori non poter andare in classe. Esatto, anche come elemento appunto di socialità, tanto che, ecco, questa è una cosa, vorrei sentire da voi, cari ascoltatori, che cosa ne pensate, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina sta ipotizzando di tenere i ragazzi in classe fino a, quando si riaprirà ovviamente, fino al 30 di giugno, e quindi, a differenza di come si fa di solito in Italia, fare come succede in altri paesi, fare solamente due mesi di vacanza, solamente luglio e agosto. Oh, cara Agnese, come dicevamo in apertura, ogni volta che rallenta la pandemia succedono due cose: si crea una task force e questo sul recovery fund, e la politica torna in tensione, e torna sempre in tensione sullo stesso argomento, il fondo salva stati. Fondo salva stati, qual è la questione? La riassumiamo per gli ascoltatori. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte giovedì e venerdì sarà al Consiglio europeo per discutere non se l'Italia dovrà utilizzare il MES oppure no, ma per discutere la riforma del Fondo salva stati, già presa in mano e già strutturata in parte dal ministro Gualtieri negli incontri con i suoi omologhi europei. Si presenterà mercoledì in Parlamento, mercoledì farà una relazione, come sempre avviene in questi casi, e poi ci sarà il voto su questa relazione del Presidente del Consiglio. Cosa succede? Succede che un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di essere contrario a questa riforma del Fondo Salva Stati. Sono una cinquantina complessivamente. Dato che anche Forza Italia si è dichiarata contraria a questa riforma del Fondo Salva Stati, ebbene, la maggioranza potrebbe non esserci nella giornata di mercoledì, il che viene fatto intendere da alcuni viene pensata come addirittura una crisi di governo che si avvicina. Sentiamo innanzitutto Vito Crimi, ieri ospite di Lucia Annunziata in mezz'ora. Noi siamo contrari all'utilizzo del MES perché lo riteniamo uno strumento obsoleto. Detto questo, questa riforma è una riforma che parte da oltre 4 anni, sì, e cerca di cambiare questo MES. Non ci piace la riforma, anche questo vorrei chiarire, perché qualcuno pensa abbiamo detto sì alla riforma. No, questa riforma non ci piace. Questa riforma non ci piace, però... Ma mentre a dicembre del 2019 potevamo permetterci di fare un ragionamento e dire questa riforma non ci piace, quindi assolutamente no, oggi siamo dopo un anno in cui abbiamo una crisi pandemica che ha investito tutta l'Europa, un anno in cui l'Europa ha dimostrato di essere in grado di mettere in campo strumenti nuovi, dimostrando quindi anche, diciamo, l'inefficacia dello strumento MES. Quindi oggi noi dobbiamo guardare avanti, per cui questa riforma è un modo un po' per chiudere un capitolo e abbandonare questo vecchio MES, ma anche questo nuovo, che ripeto non è che cambi molto, non ci piace neanche questa nuova configurazione, per parlare di futuro, per parlare di quelli che sono i nuovi strumenti. Senti Agnese, io non ho capito nulla di quello che ha detto Crimi, perché ha detto allora questa riforma non ci piace, la riforma del MES, però la votiamo per fare cosa? Per mettere da parte definitivamente il MES sia nella versione vecchia che nella versione nuova. Io non so che è un contorcimento pazzesco, eh. E riascoltare allora aveva anche di comico, in effetti mi veniva da sorridere persino a me, ma in effetti è un gigantesco sofismo politico. La verità è che una lettura un po' malevola, questo MES è davvero il cavallo di Troia della maggioranza di governo, lei tanto per le forze di maggioranza quanto per quelle di opposizione, quindi chiaramente ogni volta che se ne va a discutere c'è tutto un sollevamento di forze e di voci che tendono a minare la stabilità, perché è il tema su cui è più facile minarla. Il MES non piace a parte della maggioranza, abbiamo visto una nutrita compagine del Movimento 5 Stelle schierarsi contro, quindi mettendo davvero anche in bilico la credibilità della leadership di Giuseppe Conte, era quasi un movimento contro Conte. Poi abbiamo visto sempre nelle ultime ore, negli ultimi giorni, la mobilitazione dei colonnelli del Movimento per riportare la situazione in dei ranghi accettabili. Abbiamo visto da parte sempre della maggioranza Italia Viva agitarsi con dichiarazioni un po' minacciose sul tema, no? se si cade sul MES Conte deve dimettersi, quello che ha detto Renzi qualche giorno fa, e abbiamo visto anche nell'opposizione cadere un po' di veli anche rispetto alla posizione di Berlusconi, cioè la sua posizione sul MES ha veramente sterilizzato tutti i rumors che fino a poco tempo fa davano delle possibilità circa alleanze allargate a Forza Italia. Si è capito come il voto unanime sullo spostamento di bilancio fosse un po' una moneta da pagare, poi però per tornare all'ovile del centrodestra e di Salvini su una questione che fa molta più paura al governo, appunto mette molto più in crisi il governo, come il MES, e Berlusconi è riuscito benissimo in questa un'operazione oggettivamente di terremotamento della maggioranza, di tutti gli equilibri scrive un ascoltatore, scherza un ascoltatore, la riforma Sciroppo non piace ma tocca prenderla più o meno. Il concetto di Crimi era più o meno questo. Un altro ascoltatore dice: qualcuno gli ha chiesto perché non gli piace, guardi, glielo dico io, perché si chiama MES, punto e basta. Ormai è una questione di stigma politico, cioè è qualcosa della quale all'interno di certi ambienti politici, in particolare il Movimento 5 Stelle, ma anche per esempio la Lega, non si può toccare, cioè anche se cambiasse completamente il trattato e ci fosse scritto si chiama MES, ma sono soldi che ti do gratis, senza nulla chiedere, non a debito, a fondo perduto, tutto quello che vuoi, tu direbbero comunque di no. Traffico. Quattro mattino. Certo Simone, consegna del pane alla mattina presto. Ciao. Caro Simone, eccoci qua. Noi rappresentanti di commercio i ponti non li facciamo mai, ma nessuno ci tiene in considerazione come dovremmo. Buongiorno Radio 24, Maurizio da Firenze, oggi niente ponte, già in direzione lavoro. Eccovi, l'Italia che produce, siamo qua. Mentre invece vi abbandono domani, ve lo dico, cioè siamo in onda, però sono in onda, siamo in onda non dalle 6:30, entriamo in diretta alle 7:15. Domani giorno di festa comunque. Allora, passerei al capitolo pandemia. Nel racconto del capo dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo Brusaferro, abbiamo un'Italia che si decolora. Il nostro paese si sta lentamente decolorando, ovvero sia vedete che il rosso intenso comincia a trasformarsi progressivamente in arancione. E questo riflette in qualche modo il fatto che un po' in maniera, come vedete, omogenea un po' in tutti i paesi europei l'epidemia sta cominciando lentamente a decrescere. Così Brusaferro, che dice le misure funzionano, dobbiamo continuare. ci troviamo in una situazione con molti segnali positivi, ma siamo in una fase, diciamo, iniziale di contenimento, dove la mitigazione, le misure adottate per la mitigazione stanno portando i loro risultati. Occorre però mantenere grande attenzione, grande perseveranza nelle misure di contenimento per portare rapidamente l'incidenza a livelli più sostenibili per tutto il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Non dobbiamo allentare, dice Giovanni Rezza. Come si allenta, riparte. Se si allenta troppo, riparte troppo. Se riparte troppo, i provvedimenti che devono essere presi dopo sono provvedimenti più duri. Quindi è meglio non arrivare a provvedimenti troppo restrittivi, ma tenere costantemente bassa la circolazione virale. Vi segnalo che su questo fronte continuano ad esserci un po' di polemiche sul tema degli spostamenti. Che cosa succede nello spostarsi da un comune all'altro, all'interno dello stesso comune? Che cosa vuol dire? Qua il Viminale, a quanto pare, cioè il Ministero dell'Interno, si starebbe preparando ad una sorta di allentamento, soprattutto per venire incontro a chi abita nei piccoli comuni e magari ha i servizi in un altro comune, ma soprattutto magari ha il suo affetto stabile, vogliamo chiamarlo così, il suo congiunto nel comune proprio accanto, magari dall'altro lato della strada, e ovviamente non si potrà muovere il giorno del 25, si preparerebbe un allentamento. Intanto sentiamo due opinioni, anzi ne sentiamo tre, e sono tre opinioni di tre presidenti di regioni che la vedono in maniera diversa. Due sono della Lega, si tratta di Luca Zaia, presidente del Veneto, e di Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che ci danno due prospettive diverse, e poi di Vincenzo De Luca, il presidente della Campania. Sentiamo Zaia innanzitutto, va. Sicuramente magari li vai a tutelare in comuni da 3, 4, 500 abitanti, 1000 abitanti, 2000, ma in un comune da 3 milioni di abitanti questa norma è pressoché inutile. Allora io spero ci sia un ravvedimento, perché da un punto di vista scientifico non ha supporto scientifico. Ce l'avrebbe in linea di principio se avessimo tutti i piccoli comuni e ci fosse una uniformità di applicazione, ma così non è. Ci applichiamo una regola a un comune e a un altro comune applichiamo la stessa regola, ma alle dimensioni di uno Stato. Io non sono sicuramente un liberi tutti, però lei mi spieghi il ragionamento che sta alla base di una scelta per cui se i miei genitori abitano nel mio stesso comune posso andare a trovarli, se i miei genitori abitano a 500 metri da me ma in un comune diverso io non posso andarli a trovare. Allora mi si spieghi da un punto di vista sanitario qual è la differenza. Io condivido le misure di rigore del governo, a cominciare dalla limitazione degli spostamenti fra regioni e fra comuni. Ed ecco qua, cara Agnese, ci si concentra ancora su questo, è ancora il grande tema degli spostamenti tra comuni. Poi tu tra l'altro dirigi un giornale in un territorio che è fatto di tanti piccoli comuni. Abbiamo avuto qua ospite qualche tempo fa il presidente della regione Gianni, il quale diceva certo che la differenza tra un comune sul Monte Amiata e Firenze c'è tutta inevitabilmente. Ma infatti ci sono delle criticità fortissime rispetto a questa misura, che dovrà trovare degli aggiustamenti e trovare soprattutto anche una elasticità di buon senso. Si rischia veramente di creare dei ghetti che penalizzano territori già più in difficoltà di altri, no? Logisticamente, economicamente. Quindi bisognerà usare innanzitutto davvero l'elasticità del buon senso per applicare in maniera utile e non a volte folle questa norma. Bisogna però dire che i principi dell'Italia semaforica hanno dimostrato comunque di funzionare. Cioè io direi che il primo bilancio a un mese dall'entrata in vigore dell'Italia Colori è comunque positivo, perché si è riusciti a contenere la curva del contagio. L'abbiamo visto diminuire la famosa maledetta curva, al tempo stesso non abbiamo dovuto applicare delle misure drastiche a 360 gradi su tutto il territorio nazionale, come era stato fatto nella prima ondata pandemica. Quindi un equilibrio che al netto dell'emergenza mi sembra abbastanza accettabile in termini di risultati e di sacrifici. Siamo quasi in chiusura, solo un piccolo chiarimento con gli ascoltatori, perché io penso che Agnese condivida questo pensiero con me. Abbiamo commentato all'inizio questa questione del Pincio, raccontando le difficoltà dei ragazzi, ma è chiaro che quelli che si sono trovati al Pincio e hanno fatto a botte sono degli imbecilli, no? Ma figuriamoci se non pensiamo questo. Diciamo che no, poi uno deve andare anche a scavare, a cercare un po' quali sono le cause di questi comportamenti, e nelle cause di questi comportamenti, no, forse anche un elemento di questo tipo ci va messo. Poi ci sono tanti modi per sfogarsi: fare le flessioni a casa, correre. Io durante il lockdown, per fare sport, facevo le scale. Durante il lockdown, quello cattivo, facevo le scale. Abitiamo al sesto piano, facevo le scale di corsa avanti e indietro 4-5 volte. Ci sono tanti modi per sfogarsi. Questi imbecilli, la vita non è contemplata, esatto, da questi, esatto, ovviamente. Esatto. Questi imbecilli hanno scelto il modo sbagliato, è ovvio, no? Allora, cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie per essere stata con noi ancora una volta. Grazie. Ciao, alla prossima. È 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. C'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa. Buongiorno. Noi ci siamo sempre, noi sempre presenti, come quelli dei concerti.